Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Buongiorno da Insergante e Traghettatore, questa è l'edizione che vi accompagna lungo gli appuntamenti della settimana. Cominciamo subito facendovi ascoltare uno spot per Coopi di Valentina Vezzali, la campionessa mondiale di scherma. Nel mondo migliaia di bambini sono vittime di violenza e povertà. Per aiutarli scegli Coopi. Combatterai fame, malattie, garantirai cibo, cure mediche, istruzione e protezione. Grazie al tuo sostegno a distanza. Basta meno di un euro al giorno, un contributo minimo ma dal valore inestimabile, proprio come la vita di un bambino. Sono Valentina Vezzali. Tocca dritto al cuore. Sostieni subito un bambino a distanza con Coopi. Chiamalo 0230 85057 o vai su www.adottareadistanza.org. Grazie. www.adottareadistanza.org, attraverso questo indirizzo con meno di un euro al giorno si può adottare a distanza un bambino. Sabrina Monau è la responsabile del sostegno a distanza di Coop e ci spiega come questo è possibile. Sì, questo è possibile grazie all'esperienza che Coop ha maturato negli anni in questi paesi e quindi sa come utilizzare un ammontare di fondi relativamente modesto per soddisfare quelli che sono grandi bisogni. Tenendo in considerazione che con quell'euro non si vanno a coprire semplicemente i bisogni, quindi andare a soddisfare i diritti di un solo bambino, ma i diritti di una comunità di bambini, perché non si manda a scuola un unico bambino, ma si manda a scuola una intera classe di bambini. Per cui l'importanza di questo tipo di sostegno è che appunto si vada ad allargare la base delle persone, dei beneficiari che possono effettivamente gioire dei loro diritti fondamentali, quali educazione, alimentazione e salute. E questo appunto è possibile grazie al fatto che Coop impiega questi fondi in maniera efficiente, in maniera assolutamente trasparente e conoscendo bene il paese, quindi sapendo come andare a investire in quali settori per poter garantire il massimo dell'utilizzo nel migliore dei modi. Grazie a Sabrina Monau, andiamo avanti con le notizie. 18 febbraio scade il termine per la presentazione delle campagne di comunicazione. Questa volta però non sono professionisti a farlo, ma studenti, e soprattutto il tema oggetto di questa campagna è la lotta alla mafia. È il premio Libero Grassi nella sua edizione 2011. Le scuole vincitrici di questo speciale concorso vinceranno un viaggio di turismo responsabile della durata di 3 giorni. Vi suggeriamo di informarvi bene sulle procedure a 2 siti: www.confcommercio.it e www.solidariaweb.org, che è l'associazione che lo promuove. Buone pratiche anche da cittadinanza attiva. Esiste un altro premio che è importante segnalare per il suo alto valore educativo. La scadenza è il 15 marzo 2011 per la presentazione dei progetti. Si chiama Vito Scafidi, ce ne parla Adriana Bizzarri, responsabile settore scuole di cittadinanza attiva. Sì, si tratta della 5ª edizione di questo premio intitolato a Vito, che è il ragazzo morto nel 2008 proprio a seguito del crollo del controsoffitto in una scuola torinese. E ecco, il premio si propone di valorizzare i progetti che le scuole realizzano ogni anno e quindi sono invitate ad inviarcele, scuole di ogni ordine e grado, sui temi proprio dell'educazione al benessere, della sicurezza strutturale e poi della sicurezza a scuola, per strada e così via. E quindi noi mettiamo in luce proprio con questo premio la possibilità di ottenere cambiamenti concreti all'interno delle scuole anche nel territorio circostante, e con pochi soldi, con poche risorse, come sappiamo le scuole hanno, ma soprattutto di incidere sui comportamenti, e quindi col premio speriamo di favorire lo spirito di emulazione, cioè che altre scuole possano attingere a queste buone pratiche che noi provvederemo a diffondere. Grazie ad Adriana Bizzarri di Cittadinanza Attiva. Vi ricordo che potete segnalare le vostre iniziative di responsabilità sociale e di no profit a ferribot@radio24.it. Ferribot va in onda il sabato alle 6.50 e alle 13.55, per gli appuntamenti della settimana alle 6.50 e alle 14 della domenica. Grazie in redazione alla collaborazione di Anita Panizza e in regia a Carmelo Lauricella. A presto, ci risentiamo.